voglio vincere. Il fatto che non capisci questa merda se non la vivi da dentro. Non è questione di abbellimento, neanche di abbigliamento. Non illuderti, ma pensaci, questa è la differenza. Mai e poi mai fermarsi all'apparenza. Cos'è se paranoia, se storia, non mi fermo. Qua comanda il flow, io sono il suo subalterno. Già nessun perno, non voglio punteruole. Ma è l'inferno, mi presento, sono il custode. Chi sei per giudicare, solo per uno sguardo. Il cervello in base al pantalone e il mio è largo. Fermati a pensare veramente ciò che voglio. Odio, sta gente fa più sgarbi di vita. È ridicolo, ogni scusa è un protesto e protestiamo. Esclusi dai locali per come ci vestiamo. Ma ci rendiamo conto, quasi va per esclusione. Ma veramente ti credi di essere il migliore? Non illuderti, non illuderti. Non devi illuderti, non devi illuderti. Non soffingere, non soffingere, non soffingere. Non voglio fingere, non voglio fingere. Non voglio fingere. Non voglio fingere, io sono me stesso. E se mi comporto da stronzo, perché la mia vita è un cesso. Non faccio il depresso se mi insulti per i miei baggy. Non è le palle, si vede dei pantaloni stretti. Non illuderti, sono pronto a dar spinte. Come non tocchi il paradiso, quindi mangiati un Kinder. Cos'è mi dai del passo, faresti meglio. Ti do un concentrato di pop e ti deconcentro. Sti Dolce & Gabbana parlano di gruppi, ma al massimo sono 12 anni su cui fanno stupri. Che cazzo mi racconti, non sai manco chi sono. Ma qua lascio il mio assetto, proprio come Momo. Sono stanco di tutta sta gente che mi guarda. Brucio l'acqua santa con delle guardie, restate in guardia. Io parlo come mangio, sai che mangio grasso. Da fare invidia a chi ha il colesterolo basso. Non illuderti, non devi illuderti, non devi illuderti, non devi illuderti. Non soffingere, eh già. Non voglio fingere, no che non voglio, non voglio fingere. Non so fingere, come il figlio di un poliziotto che brava gli occhi di papà e si fa un pippotto, tutti bravi coi parenti. Poi si è barzellette, di notte fanno i pervert a calarsi pallette. E già tutti tipi di flame uniti come l'Italia, ma solo ai mondiali e gli europei. Tutti che vogliono fare stilo fuori luogo, come il cieco che in un ago vuole mettere un filo. Io non respiro agosto, faccia lampadata. E con la tua tipa per baciarti fai la baciata. MP3 sul cellulare, poi fai la figata, perché accendi il telefono e balli per strada. Ora rido io come ridi tu per me. La legge uguale per tutti, anche se a volte non lo è. Cos'è di sentimento addosso, ma il mio inchiostro. Ora lo sai come sentirsi al mio posto. Non illuderti, non so.